Ed è con Gaudio Cosmico che comincia questa quarta puntata di Boca Chica Cosmodrome. Ora vi chiederete, ma Cosmodrome? Fino alla volta scorsa dicevate Cosmodrome. Beh, insomma, già ce lo siamo un po' scordato. Sentitevi la puntata scorsa e capirete perché. La pronuncia è un po' cambiata, ma ricambierà, Bimo, secondo me, che sì, dici? Sì, cambierà. Sì, sicuramente. Cambierà assolutamente. E cambieranno molte cose qui dentro. Siamo sempre dentro al CSOA Forte Prenestino di Roma, dentro a Radio Forte, e questa è la nostra sigla Boca Chica Cosmodrome. Boca Chica Cosmodrome. Boca Chica Cosmodrome. E buonasera a tutte e a tutti, questa è la quarta puntata di Boca Chica Cosmodrome. L'avresti mai detto, Bimo, che saremmo arrivati anche a una quarta puntata della seconda stagione, ricordiamolo. Sono sconvolto. Siamo sconvolti. E quindi ricordiamo subito che chi vuole ascoltarsi i podcast passati deve andare sul sito del CSOA Forte Prenestino, forteprenestino.net, cercare la slot di Radio Forte e poi all'interno annidiarsi fino a trovare Boca Chica Cosmodrome. E cosa troveranno, Bimo, oltre ai podcast contemporanei? Nella sezione podcast un sacco di roba che non so che cosa sia, però è tantissimo. Ma no Bimo, devi dire le nostre vecchie puntate. Boca Chica Cosmodrome della prima serie, tutta la prima serie. Non dica solo quello, però. No, non solo quello, ma nella slot di Boca Chica Cosmodrome tutto quello troverete. C'è una slot, non lo sapevo. Sì, non te lo sei mai sentito. Gravissimo. No, mai, gravissimo. Mai. Però vi ricordiamo anche che siamo su Telegram, posto in cui sono molto sorvegliato dai nostri collaboratori, dal nostro staff, che dalla redazione che raccoglie le vostre domande e le indirizza verso qui, verso la regia, verso la plancia, che vi ricordiamo essere Bimo e Cobol. Buonasera, Bimo. Buonasera. Tra l'altro stasera avremo una sorpresa incredibile. Sì, veramente. Per gli affezionati, ovviamente. Sì, beh, certo. Quelli non affezionati lo sanno già. Non capiranno assolutamente nulla. Allora, a differenza della prima stagione, quest'anno siamo un po' più farfalloni, l'abbiamo detto. Però non ci facciamo mancare una cosa che c'è sempre, che è un estratto 45 giri dell'Uomo e lo Spazio, una fantastica raccolta della Mondadori degli anni 70, due libroni più un cofanetto 45 giri con cui vi stiamo allietando ogni volta con un brano e con un estratto che sentite bello fruscioso, con delle voci fantastiche che sono le voci dell'epoca e di cui siamo molto molto felici. Oggi sarà una combo inedita anche col primo brano. Sì, Madonna. Io credo che l'autore che suonerà il primo brano non sia mai stato suonato all'interno di Forte Prenestino. Neanche io penso. Una premiera assoluta. Verrà una folla inferocita a buttarci fuori. Può succedere, quindi restate con noi e Bimo, quindi Gagarin. Andiamo. Mattino del 12 aprile. Per la Russia è un giorno come tanti altri. Nelle regioni del mezzogiorno si semina il cotone. Nel nord la neve copre ancora la terra. Quel mattino un uomo saluta i suoi amici. Я вам скажу до свидания. Что больше вам сказать? Все, что я делал. Vi dico arrivederci. Che posso dire? Tutto quello che ho vissuto, tutto quello che ho fatto fino a stamane, mi sembra vissuto e fatto solo per questo istante. Vi abbraccio, amici. A presto. Terra, i cronometri hanno incominciato a scandire il primo di quegli storici 6480 secondi. Tanti ne durerà il volo di Yuri Alekseyevich Gagarin. Mancano pochi minuti alle 10 del mattino. La vita a Mosca si ferma come per un prodigio. La voce di Yuri Levitan, la voce più famosa dell'Unione Sovietica, quella che aveva annunciato la vittoria di Stalingrado e la presa di Berlino, dà la grande notizia. Gabarit Moskva, dice Yuri Levitan, parla Mosca. Все исторические минуты, когда космический корабль «Восток» совершал свой полет с первым человеком-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным над нашей планетой, между Землей и космическим кораблем. La gente si abbraccia nelle strade, gli operai lasciano il lavoro, molte donne fanno il segno della croce, alla maniera ortodossa. Gabarit Moskva, Gabarit Moskva. Продолжается хорошо. Наблюдаю землю. Видимость хорош, видеть можно все. Некоторое пространство покрыто кучевой облачностью. L'orologio della torre Spaskaya batte le 10. In cielo la Vostok di Yuri Gagarin ha ormai varcato la frontiera del giorno e della notte. È sull'emisfero di Ponente ancora immerso nel crepuscolo del giorno prima. Sorvola l'America che sta dormendo e non sa. È questo il primo straordinario colloquio di un uomo che da lontano parla con il suo pianeta. La terra è azzurra, dice Gagarin. I colori sono straordinari. Dal blu cielo si passa al blu scuro, al violetto, al viola, al nero. Uscendo dall'ombra, la terra è come circondata da un anello di colore arancio. Il sole qui è 10 volte più brillante. Non posso distinguere le costellazioni, passano troppo veloci davanti al mio blu. Così mi sembra il cielo, diamanti che brillano su un velluto nero. Gabarit Moskva, Gabarit Moskva, parla Mosca. È l'ora dell'annuncio più atteso. L'angoscia di tutto il mondo finisce in quell'istante. La nave spaziale Vostok, alle 10.55, ora di Mosca, ha compiuto un felice atterraggio in una zona prestabilita nell'interno dell'Unione Sovietica. La Russia non fornisce i particolari dell'atterraggio di Yuri. Conosciamo soltanto il nome della ragazza di un kolkhoz che lo vide per prima. Anna Taktarova. Lo vide arrivare dai campi come un antico pellegrino e secondo la buona vecchia usanza gli offrì una ciotola di latte. Il nome di Yuri Alekseyevich Gagarin fa il giro della Terra più veloce della sua Vostok. Alle Nazioni Unite i delegati pronunciano per la prima volta quel giorno il suo nome. The name of Gagarin, I hope I pronounce it correctly, will shine as the brightest star. Exactement comme le héros, le major qui vient d'être descendu vers la Terre. Major Gagarin's momentous exploit will take its honored place among the great. C'est bien pour cette raison que nous éprouvons pour le magnifique exploit du commandant Gagarin. Si associa anche Utant. And Major Gagarin's feat in the view of my delegation is the most. E commosso ringrazia l'assemblea il ministro sovietico Zorin. Успешного рейса советского гражданина Юрия Алексеевича Гагарина на корабле Восток, созданном руками советских. We'll be right back. E avete sentito un po' il nome di Gagarin in tutte le lingue del mondo, avete sentito sì. anche la sua voce originale in, in vinile, il che insomma diciamo, è un piccolo pregio che vi regaliamo. Quindi il Gagarin nello spazio, siamo nel 61, quindi con il lancio del primo uomo nello spazio, per quello che noi ne sappiamo l'unico uomo a essere andato nello spazio, vero? Vimo. Sì, oltre a una serie di cani anche, non cani, scimmie, quelle, cani sì. scimmie e gatti, esatto. perché i francesi mandavano... Tardigradi anche. Tardigradi, ma quelli molto dopo, i francesi mandavano i gatti, tanto per distinguersi e fare una cosa un po' diversa. Insomma, io l'altra volta vi chiedevo se di farci sapere se la cosa vi piace, se vi piacciono questi 45 giri, non ci avete fatto sapere niente, insomma, ah, restiamo... non c'è stato un compatto coro di sì. No, non ci hanno fatto sapere assolutamente niente. Nulla. Comunque ritorneremo sull'argomento, proviamo a promettere un adesivo, per cui dici che senza un adesivo non c'è il mordente adeguato. Secondo me neanche necessario. Però vabbè, insomma. Allora, torneremo su Gagarin tra poco, perché nel primo brano poi sì. ritorneremo anche... C'è la combo di prima. Sì, c'è una grande sorpresa. Oggi il compito che io mi sono dato, ma in realtà è un po' il compito quello di riesumare alcuni dei concetti che c'eravamo tanto prodigati a portare avanti e a specificare nella prima stagione di Boca Chica Cosmodrom, e ogni volta lo dico diverso, lo so. Sì, tra l'altro guardo hai imbroccato la A e sbagliato, esatto, e guardo con sensi di colpa, voglio uscire da questa cosa che guardo con sensi di colpa, mentre lo dico guardo con sensi di colpa Ray Max, perché so che è lì che mi bastona, basta, è lo dico, il custode, esatto, degli accenti, lo dico come mi viene, diciamo che se è Cosmodrom vedremo, insomma, nell'evolversi, non voglio farla troppo lunga, ma nell'evolversi di questa trasmissione cambierà molte volte, sappiate che non sono portato per le lingue, neanche per il sovietico. Comunque ci siamo tanto prodigati a parlare di cosmo anticapitalismo, questa era anche una questione che poneva tra l'altro proprio Ray Max, il nostro compagno Ray Max, che poi troveremo nella rubrica del cuore, della posta del cuore, perché giustamente ci diceva, ma noi questa era una cosa che avevamo molto affrontato la scorsa edizione, il fatto che insomma sì, siamo critici verso questa espansione dell'uomo dello spazio, ma siamo solo critici o c'è anche qualcosa di positivo in questa fuoriuscita, in questo espandersi, in questa espansione? Lo scoprirete adesso, ma lo dicemmo all'epoca, in realtà sì. la posizione era abbastanza articolata, però in poche parole sì. Ma io guarda, intanto direi, tanto adesso dico una cosa su cui tu non sarei sicuramente d'accordo, perché ne abbiamo già discusso, ma la voglio dire uguale. Ci accapiglieremo una volta di più. Sì, ci sono due ragioni per cui in qualche modo guardare positivamente allo spazio, cioè, ce n'è una in particolare, l'altra non è proprio positiva ma è necessaria. Partiamo da quella non positiva ma necessaria, il fatto, lo abbiamo dimostrato in queste puntate, c'è un capitalismo, un neoliberismo che si espande alla ricerca di risorse e di valorizzazione del capitale nello spazio esterno, extraatmosferico. C'è una dimensione di inevitabilità. C'è una dimensione di verticalità inevitabile, e questo ci porta a spostare la critica anche verso una dimensione verticale del capitalismo. Però dall'altro, Bimo, è quello che tu sai, conosci bene questa mia idea, che noi nasciamo tutti come astronauti, perché in realtà siamo su questa grande astronave, questa che Richard Buckminster Fuller definiva, non avrò detto anche Fuller, avevo sbagliato, vabbè, però diciamo definiva astronave Terra, ti ricordi questa definizione? Sì, mi ricordo, ne parlammo, e poi avevo anche ricordato un concetto simile che veniva espresso nella serie The Expanse e anche nei libri, per cui gli spaziali avevano sviluppato questa idea per cui tutti gli uomini, il genere umano in generale, viveva in una gigantesca astronave distribuita tra astronavi veri e propri, pianeti, eccetera, ma comunque era sempre tutta un'astronave. Beh sì, se si ragiona sul fatto che in realtà la Terra è una palla in movimento circondata da una biosfera, in realtà è un'astronave. Eh sì. Un'astronave che si muove in maniera sincrona con tutto il sistema solare, ma anche con la Via Lattea, che si espande in un universo. Che a sua volta è una grande astronave. Esatto, che si muove tutto abbastanza sincronicamente, no? Se è vera la teoria del Big Bang. Quindi insomma, diciamo, noi nasciamo come astronauti perché nasciamo all'interno di un sistema di produzione che ci identifica come astronauti. Io qualche anno fa feci una polemica sterile con l'ESA, perché questi continuavano a mandare gli astronauti nello spazio e li chiamavano appunto astronauti. Io gli scrissi dicendogli: ma perché li chiamate astronauti se li fate partire dal cosmodromo o dal cosmodrom di Baikonur, che è il tipico cosmodromo russo? E loro mi dissero: no, ma ormai sono tutti astronauti. Delirio, cioè un ma delirio di onnipotenza. Cosa che non è vera, perché poi sono comparsi anche i taikonauti nel frattempo, per cui proprio no. Bestemmia assoluta. E questo è uno dei motivi per cui, se noi effettivamente nasciamo astronauti, beh, cerchiamo di fare un passo in più verso la liberazione e diventare cosmonauti. Insomma, ecco, questo è il doppio binario su cui secondo me si muove sia la critica che anche la proposizione. Infatti io mi sono dato un po' l'obiettivo di fare un breve riassunto, cercherò di essere molto breve, tu aiutami a essere breve, Bimo, su quelle che sono le controculture dello spazio. Questa era la questione in fondo, no? Cioè, sì. c'è una critica che noi stiamo facendo al neoliberismo spaziale, quindi all'espansione umana del capitale nello spazio, ma ci sono anche controculture che nel tempo hanno ragionato, negli anni hanno ragionato sull'opportunità di andare nello spazio, ma anche prima di noi, ben prima di noi, sul fatto che comunque il capitale per noi è un fatto odierno, ma per loro era un fatto quasi fantascientifico e futuribile. Prima o poi nello spazio ci sarebbero andati e quindi avrebbero dovuto iniziare ad occuparsi di questa famosa dimensione verticale. E beh, torno così tanto indietro nel tempo perché l'avevamo accennato nella puntata scorsa, ad esempio il cosmismo, sì. Questa corrente filosofica ottocentesca teosofica, nata nella Russia appunto di fine Novecento, e che ben fine poco 800. Scusami, fine 800, che ha ben molto poco a che fare con in realtà l'immaginario fantascientifico, ma che è alla base di una serie di concetti, tra cui la nascita stessa, adesso la faccio un po' breve, la nascita stessa della cosmonautica, che nasce proprio dal cosmismo, no? Quindi una grande differenza con gli astronauti, che sono invece un corpo specializzato molto recente che nasce tra gli anni 40 e gli anni 50 negli Stati Uniti. Vabbè, insomma, non hai nulla da dire stavolta. No, la questione si riduce poi al fatto di esplorare ragioni diverse per cui andare nello spazio, diverse da quella ovvia che ci è stata propinata, certo. Sì, ci è stata insegnata da quando eravamo piccoli, ci è stata ulteriormente propagandata in innumerevoli film, libri, eccetera, quindi la conosciamo tutti benissimo, le altre meno, e quindi ecco qua la ragione per cui Cobol... Mi pare un'ottima sintesi. Allora io partirei non tanto proprio dall'antichissimo cosmismo, quindi fine ottocentesco, ma da un personaggio di cui abbiamo fatto pure una monografica, abbiamo parlato tantissimo, che è il nostro Bogdanov, sì. Il grande acerrimo nemico di Lenin, ma molto tra virgolette, insomma un bolscevico che la pensava in maniera diversa da Lenin, ma che era anche uno scrittore di fantascienza e che probabilmente se avesse vinto nella sua diatriba con Lenin per la guida del bolscevismo, oggi i bolscevichi sarebbero già nello spazio, o comunque quantomeno avrebbero messo il piede vinto Bogdanov, esatto, avrebbero messo i piedi per primi sulla Luna, come tra l'altro racconta una serie di visioni di cui abbiamo già parlato, che è For All Mankind, esatto. No? Quindi guardatevela perché è una... Se siete curiosi di sapere cosa sarebbe successo se Bogdanov avesse avuto la meglio dal punto di vista americano, insomma è un'ucronia, come dicevamo. Insomma, molto rapidamente ne parlavamo anche prima mentre cenavamo, noi ceniamo perché qui al Forte Prenestino si cena e poi si viene a fare radio, pieno di posti buoni dove si mangia, sì. E a Jack Parson è un personaggio non russo, ma è un po' il mattone fondamentale dell'esoterismo spaziale statunitense, da cui nascerà poi il JPL, personaggio dimenticato perché molto vicino a Aster Crowley, comunista, e poi soprattutto creatore delle prime comuni californiane hippie, no? Precursore di una serie di pratiche che insomma la NASA preferisce dimenticare, e per dare spazio invece a quello che è il tipico la tipica figura che viene ritenuta fondatore della NASA, che è invece Wernher von Braun, quindi un nazista. Meglio, esatto. Meglio nazisti che fricchettoni. Eh sì, alla fine il tutto si riduce a questo. Assolutamente. In Italia un cosmo anticapitalista molto interessante è Bordiga. Amadeo Bordiga, il fondatore del Partito Comunista d'Italia, che verso la fine della sua carriera, proprio in prossimità della sfida Unione Sovietica-Stati Uniti per la conquista della Luna, scrive tutta una serie di articoli spassosi sul programma comunista, fantastici, dove lui fa una antelittera, una bellissima critica sullo scientismo sostanzialmente, perché sulla spettacolarizzazione della scienza, in cui dice questa corsa allo spazio non è altro che una corsa, come faranno poi i situazionisti, una corsa spettacolare e non una corsa scientifica. È davvero, davvero pungente cercatevelo in rete, perché questi scritti di Amada Bordiga si trovano e sono molto interessanti da leggere. Nel 77 c'è L'ambigotopia, che è una costola poi di Potere Operaio, che si stacca da Potere Operaio e che fonda a Milano Caronia, il compianto Caronia, non è che la fonda, ma insomma entra dentro una bigotopia e gli darà una forma, che sono coloro che negli anni 70 a sinistra antagonista si riappropriano del pensiero fantascientifico, che all'epoca era sorretto quasi esclusivamente dalla destra, insomma, quindi un passaggio molto molto interessante. E come possiamo dimenticarci negli anni 90 di quello che è stato l'ufociclismo? Anche su questo potete andarvi a cercare, la rete piena di informazioni, ma ancora prima negli anni 60 l'afronautismo e anche di fotografie e di fotografie e l'afronautismo che è ritornato di moda un po' ultimamente, ma che in realtà è un percorso che nasce nell'Africa, nello Zambia, negli anni 50 grazie a un coraggiosissimo zambiano infatti, e che negli anni 60 si inventa il primo programma spaziale africano, appunto dello Zambia, in cui c'è una serie di prende una serie di giovani e li allena in previsione del volo spaziale verso la Luna e verso Marte. Questa corsa si conclude con pochi altri elementi, ma che insomma piccole suggestioni che vi stiamo dando, che poi troverete appunto, come dicevo, comunque nella prima serie. Sì, nella prima serie, però abbiamo parlato a lungo. Qui li ricordiamo un po' al volo. L'ufologia radicale degli anni 90, anche lì un pensiero molto vicino a quello che tu citavi la volta scorsa, posadisti, no? Quindi questo presupposto per cui se alieni sono arrivati fino al pianeta Terra, non possono che essere comunisti, perché la loro società ha superato tutta una serie di contraddizioni, soprattutto la lotta di classe che rallenta, come vediamo nelle guerre attuali, rallenta lo sviluppo umano. Superate queste contraddizioni ci troveremo a poter affrontare problemi molto più seri come il viaggio spaziale e l'interplanetarismo. Chiudo con lo xenofemminismo, ripeto, è una breve sintesi, ma in realtà una galoppata, sì, si potrebbe dire. Sì, i movimenti sono molto di più, che è un movimento molto più vicino a noi, che nasce intorno al 2000, nasce come eresia di quello che è il cyberfemminismo fondamentalmente, e che si occupa della riappropriazione del corpo femminile in chiave di totale alienità da quelli che sono i principi terrestri e le cosiddette tradizioni terrestri, slegandosi anche da quelli che sono i principi che in qualche modo vedrebbero il corpo non poter essere modificato in base a quelle che sono le proprietà fisiche del nostro pianeta. Quindi andare oltre alle proprietà fisiche del nostro pianeta, riappropriarsi del nostro DNA e trasformarlo a piacimento fino a diventare degli alieni che abitano sul pianeta Terra. Beh, insomma, spero che queste suggestioni vi siano piaciute. E ti sono piaciute, Bimo? Moltissimo. Al nostro pubblico? Qui c'è il pubblico con noi, adesso scoprirete. Sono piaciute, mi sembra che sono piaciute. Allora io vi lascio dopo questa lunga, purtroppo un po' lunga, galoppata con un pezzo. Ritorneremo e capiremo perché di questo pezzo. Adesso io volo. chiamavo casa mia, la vodka è di lì là, è il lago che bagnò il bambino Yuri. Con il piede io scansai bugie, volgarità, calunnie, guerre, maschere antigas. Come un falco mi innalzai e sul polo nord sposai l'eternità. Anche l'ombra mi rubò e solo restai, e ancora adesso io volo. E va bene, l'abbiamo tagliata perché era molto lunga, l'avrete l'avrete riconosciuta, bellissima, Claudio Baglioni, che penso non sia mai passato nelle frequenze di Radio Forte, ma sono molto molto felice di averlo fatto passare, perché io sono un fan di Baglioni, quindi è così. Insomma, sono credo... anni che ci prova. Sono fan di un disco, solo di un disco, che è La Vita Adesso, che secondo me è un bellissimo disco, su cui faremo una puntata, credo. Sì, anche allora. Due direi. Allora, questo è un brano del 77 di Baglioni, che è dedicato, come avrete capito, a Gagarin. Strano, perché insomma Baglioni era, si vocifera fosse un democristiano, che sia un democristiano in qualche modo, ma il compromesso storico era già... Magari ha cambiato idea in questi ultimi 50 anni. Vabbè. Ah sì, questo sì, questo potrebbe, è vero, questo potrebbe no. essere. No, però pensavo a una coincidenza di date, cioè questo pezzo è del 77, in realtà il compromesso storico è del 73, quindi no. La cosa interessante da dire su questo brano è che in realtà la musica, che io trovo molto bella, molto poetica, è in realtà accompagnata da un testo che è un libero riadattamento di un poeta russo che ha scritto questo brano nel 60, che si chiama Sono Gagarin, figlio delle stelle, lui si chiama Evtusenko. Sì, sì, è completamente copiato, e non solo è completamente copiato, ma non è neanche attribuito, cioè lui neanche dice l'ho presa, quindi non c'è attribuzione. No, io allibivo al figlio delle stelle, veramente. Ah, vi vedevo, no, perché vi vedevo le facce, no, perché perché noi. No. Ah, perché pensava ad altri, come figli delle certo. stelle. Vabbè, sì. Pensavamo ad altri. Va bene. Allora, a questo punto, Bimo, io credo che ci sia il nostro classico, un classico di questa trasmissione, già dello scorso anno, la puntata Clatuba, scusate, la rubrica Clatuba Nicto. Dell'agitatore culturale Andromalis. Noi, come dire, spendiamo sempre grandi parole sul nostro Andro, perché lo amiamo, lui collabora con noi già da molto tempo, è un fumettista e illustratore meraviglioso, ma si occupa anche di questa rubrichina molto particolare di fumetti underground di fantascienza. E poi possiamo dirgli qualsiasi cosa, perché tanto lui non c'è. Non c'è, però so che ci segue sempre in diretta, insomma, quindi io direi partiamo con la sigletta e poi rientriamo con la voce di Andromalis. Latu, Barada, Nikto. Latu, Barada, Nikto. Latu, Barada, Nikto. Latu, Barada, Nikto. Clatu Barada Nikto. Oggi proveremo a scoperchiare il sarcofago acido della profezia del professor Bad Trip. Non l'ambiguo, terribile, magnifico personaggio di William Burroughs, ma Gianluca Lerici, che gli rubò il nome e che fu il più grande disegnatore italiano di fumetti underground, che più di ogni altro ha inquinato e deformato l'immaginario alternativo e la narrazione antagonista della controcultura, straripando anzi dai suoi angusti argini. D'altro canto, nel suo stravagante e straziante testamento sentimentale, Gianluca Bertrip sognò di trasformarsi in un fungo e di contagiare i ribelli dello spazio-tempo a venire con le sue degenerate, degeneranti spore. La sua profezia è un fumetto di 3 paginette, scritte e disegnate agli inizi degli anni 90, quando il mondo underground, finalmente dopo tutti quei colori acidi anni 80, si riappropriava del sano, nerissimo rancore post-punk. Qui uno dei tanti alter ego, tecnomutanti di Gianluca, osserva come tutti parlino male degli anni Ottanta. Ma vedrete nel 2020, avverte, ed inizia una sequela di grandi distopie, dalla chiesa catodica all'isolamento domiciliare, dall'irrespirabilità dell'aria al controllo assoluto della robopolizia sulle nostre coscienze, fino alla spiazzante conclusione in cui, paradossalmente, si rallegra dell'atmosfera ideale per disegnare fumetti psicoparanoidi. Gianluca è morto nel 2006, lontano da quel 2020 che noi abbiamo conosciuto come effettivamente terribile, attraverso la pandemia mondiale, la crisi profonda dei rapporti tra individui, della crisi della relazione di responsabilità tra individuo e collettività e di libertà tra individuo e potere, ma soprattutto l'inaspettata e conseguente accelerazione del sistema capitalistico. Ma al di là della cabalistica ironia del destino, dalla profezia del professore sbuca fuori nel 2020 proprio un piccolo capolavoro di fumetti psicoparanoidi. Naked Pig, del giovane Nessuno Niemand, al secolo Francesco d'Apolito, edito da Sputnik Press. In Naked Pig vi è tutto l'apparato distopico lisergico possibile, da Barrocks a Dick, ogni tipo di innesto biodigitale che Cronenberg abbia immaginato, ogni perduta speranza, da Orwell ad Huxley, e sono presenti ovviamente gli effetti della spora del fungo umano Gianluca Lerici. Non solo attraverso un bianco e nero sotterraneo senza compromessi, ma soprattutto nella deformazione del segno forma, esattamente come in un bad trip, e nella frammentazione narrativa, esattamente come in un file degenerato. È qui il segreto della resistenza underground, artistica e politica: essere un nuovo codice di lettura del mondo attraverso una apparente forma degenerata. I più bravi, poi, riescono a colloquiare, inquinare, contagiare, hackerare e frammentare addirittura il futuro. Allora, Bimo, è sempre più Dorighezzi questo nostro Andromalis con queste sempre sue, di più, queste sempre sue di letture. Più. Per fortuna possiamo dire tutte queste cose perché tanto non c'è. Allora io direi, Andro, perché sempre più Dorighezzi? Sogno quello di essere tutti i ghezzi dello spazio. Ma lo sei, diciamo, in realtà il riferimento è molto più a Enrico Ghezzi. Ma insomma, la sorpresa era questa. Abbiamo in diretta Andromalis, un applauso. Un applauso perché insomma lo abbiamo ambito per tanto tempo, finalmente è qua. Dovevamo, tra l'altro, doveva leggere la sua recensione live, ma non ci siamo capiti, quindi è partito il simulacro. C'è stato un momento di silenzio, esatto, insopportabile. È partito il simulacro, l'andro sintetico. No, io mi ribello e mi rifiuto, non posso intervenire dopo Claudio Baglioni. Cioè, non sai che uno può portare le proprie perversioni in radio e gli altri devono subire. Credo che in questo momento stiano sgomberando il cesso a Forte Prenestino perché. Perché finalmente hanno trovato un appiglio legale, hanno mandato in onda Claudio Baglioni, sgomberiamo. No, assolutamente, ricordiamolo, anzi, che siamo nel CSOA di Roma, Forte Prenestino, ricordiamo che siamo a Radio Forte, questa è Bocca Cicla Casmodrom, e con noi ospite assolutamente gradito l'Andromalis di questa De Noantri, diciamo. Vabbè, Andro, scusami, una cosa. Tu hai fatto quello dei Voantri, chi è? Scusate. Tu hai fatto questa cosa su Bad Trip, diciamolo che Bad Trip tu lo adori. Ma non è che io adoro Bad Trip, io subisco Bad Trip, perché come detto prima, il sogno di Bad Trip, questo struggente testamento che lui lasciò, era proprio quello di diventare un ragazzo spora di fungo e quindi di inquinare le anime dei giovani ribelli che sarebbero venuti in futuro. E io quando ero ragazzino sono stato inquinato dalle spore del ragazzo fungo Gianluca Lerici, così come un sacco di altre persone. Quindi no, io non è che lo ami o lo adori, io sono assolutamente inquinato dalle sue spore. Quindi non sei posso un po' lui anche. Siamo tutti un po' lui. Senti, faccio questa domanda a te perché sei assolutamente colui che mi può rispondere. Ma prima di Bad Trip c'era stato qualche cosa di, del genere nel fumetto underground? Nel fumetto underground sì, perché negli Stati Uniti è una vita che fanno fumetti underground. No, ma io dico qualcosa che assomiglia al fenomeno Bad Trip. È una bella domanda, probabilmente sì. Ma io personalmente non lo so, ma sono quasi sicuro di sì, per il semplice fatto che tutta la controcultura, soprattutto a partire dagli anni 60, dalla fine degli anni 60 fino ad arrivare alla morte poi della controcultura americana, legata al movimento hippie, legata alla grande estate del 67 dell'amore, è comunque un'enorme, gigantesca armata pacifista che si muove in tutte le direzioni culturali, per cui dalla musica al fumetto, alla narrativa, alle copertine dei dischi, ai grandi manifesti. Che ne so, mi viene in mente Rick Griffin, per esempio, che è un grandissimo, gigantesco disegnatore. Ha fatto delle copertine straordinarie per i Grateful Dead, le cose più belle, più importanti. Forse lui è quello che assomiglia di più. Ma Bad Trip ha un altro passo, perché Bad Trip, rimanendo sempre legati a questo, a questa enorme, gigantesca armata pacifica della controcultura, per cui tutto è collegato. Bad Trip è molto legato anche lui alla musica. Nel frattempo però è arrivato il punk, quindi il segno, la forma di Rick Griffin, che potremmo definire addirittura ovviamente psichedelica, ma in qualche modo rinascimentale per bellezza e per perfezione, marcisce, si muta, si trasforma acidamente grazie ai suoni, al tremore del punk, e Bad Trip diventa qualcos'altro. Il disegno di Rick Griffin in Bad Trip diventa brutto improvvisamente, la linea si espande, esplode come un tatuaggio sulla pelle malata. Quindi sì, ci sono state cose prima di... Beh, fantastico, sei riuscito a fare una recensione di te stesso. Io comunque ti voglio dare questa notizia. Sei, diciamo, in scaletta, sei venuto subito dopo Claudio Baglioni, quindi sarai ricordato nella storia come colui che segue Claudio Baglioni in una trasmissione che parla di cosmo anticapitalismo e di espansione del capitalismo nello spazio. Colui, insomma, che non si oppose. Non si oppose, non disse nulla. Andro, grazie, noi ti avremo anche la prossima puntata. Io volevo soltanto qui aggiungere una cosa. Sì, qui al Forte ci sono delle tracce di Bad Trip. Bad Trip, certo, qui è venuto al Forte, ha lasciato un paio, credo, di murales. Tra l'altro un due feste del primo maggio, quindi feste del Forte, quindi due anni fa, ci fu anche proprio il manifesto del primo maggio del Forte, che era un disegno era dedicato Bad a lui. Era proprio suo, un suo disegno inedito. Sì, ma perché era dedicato a lui? Sì, certo. Sì, la, come dire, la spinta. Assolutamente, sì. Sì, c'è stata sicuramente una contaminazione molto molto forte qui al Forte. E grazie Andro, grazie a voi. Ti aspettiamo non fisicamente, ma con una recensione anche la prossima settimana, immagino. L'importante è che non mi mettiate Baglioni. Lo faremo. Allora, io invece passo, invece di mettere musica, passo direttamente a Bimbo. Bimbo, tu hai qualcosa da raccontarci? Oggi sì. Oggi, in completa controcorrente, vi diremo che i cinesi sono buoni. I cinesi sono buoni, almeno per quello che riguarda il loro approccio allo spazio, e invece gli americani sono cattivi. E perché? Un po' di contesto prima. Allora, per chi c'era o per chi si è risentito le puntate della scorsa stagione, è inutile menzionare il padre di tutti i trattati internazionali che riguarda lo spazio, che è l'Outer Space Treaty, che si può, purtroppo non è una traduzione italiana, nel senso che la traduzione esiste in una serie di lingue ma non in italiano, quindi la più vicina, io in arabo non so come si dica per esempio, e quindi ce lo dobbiamo tenere in inglese. Protesteremo, ma purtroppo questa è la situazione. Forse poca attenzione dal punto di vista del nostro paese, probabilmente è un eufemismo, probabilmente. E che è in vigore dal 67 e che stabiliva una serie di principi che in questi anni, e lo vedremo anche nel seguito di questo mio intervento, hanno bisogno di essere poi tradotti in realtà in questi anni, perché fino adesso il principio bastava, non c'era bisogno di porsi il problema di in qualche modo realizzarlo. Allora, la parte dell'ONU che si occupa di queste questioni è lo United Nations Office for Outer Space Affairs, uno OSA, e all'interno del quale... Peccato perché suona bene pure in italiano, tra l'altro, uno OSA. Uno OSA, sì, uno OSA e gli altri. Nel contesto del quale i singoli paesi fanno delle proposte nei mesi scorsi è arrivata una proposta cinese a proposito appunto delle politiche da sviluppare adesso che per esempio si pone il problema dello sfruttamento delle risorse spaziali. E quindi i principi del trattato devono in qualche modo trasformarsi in delle leggi, forse. I cinesi non sono gli unici ad essersi occupati di questo problema. Per esempio, negli Stati Uniti questo problema è stato affrontato già nel 2015 e la soluzione era che le risorse che delle aziende americane ottenevano dallo spazio erano di queste aziende americane. Il problema è che questo va contro il trattato. Allora, la proposta cinese si articola in una serie di punti che corrispondono a degli articoli del trattato. Il primo, appunto, è quello di cui stiamo parlando ora, è l'articolo 2 che praticamente impedisce a chiunque di appropriarsi di risorse dello spazio extraterrestri. Quindi è un principio, non c'è una legge. Tra l'altro era come il trattato sulla Luna. Il trattato sulla Luna del 60, esatto, era? Esatto. 67, se non sbaglio. No, pensa che un po' dopo, è un 72, figlio, 77. È un figlio dell'Outerspace. Esatto. Che diceva questo, praticamente la Luna e i corpi celesti non erano appropriabili in qualche modo. Esatto, esatto, ribadendo ce lo siamo dimenticati. Esatto, un principio che c'era già nel trattato precedente. I cinesi esortano il comitato a rendere operativo questo articolo, che adesso è soltanto, come dicevo, un principio, e quindi propongono al comitato di trasformare il principio in una serie di norme che facciano in modo che il principio venga rispettato. Questo va completamente in controtendenza rispetto all'approccio statunitense, ma anche di alcuni paesi europei. Mi pare Lussemburgo abbia un... Si è all'avanguardia per la sua giurisdizione sullo spazio. Esatto, assurdo. All'avanguardia nel senso che le aziende lussemburghesi possono appropriarsi di quello che vogliono nello spazio. E quindi hanno una giurisdizione molto simile a quella statunitense. Esatto, esatto. L'unico paese europeo che ha cercato di fare concorrenza alla struttura del New Space statunitense. Esatto, di superarli a destra, se è possibile. Un'altra questione molto importante è che veniva Oddio, c'è qui Cobble che mi fa vedere, mi fa... Sì, siamo un po'... No, beh, possiamo... Stiamo andando lunghi. Scarreremo sicuramente questa sera, però vai, insomma, però ti volevo dare un senso orario alla cosa. Mi ha fatto venire l'agitazione adesso. Ti mando Baglioni. Chiamate Andro, chiamate Baglioni. Ugualmente l'articolo 1, che è fondamentale, ovviamente essendo poi l'articolo 1 per l'appunto, privilegia la ricerca scientifica nell'espansione spaziale, al punto di dire che non ci devono essere degli impedimenti alla ricerca scientifica, impedimenti che potrebbero essere per esempio l'appropriazione di un luogo, di una risorsa da parte per esempio di un'azienda che si occupa di estrazione di metalli, per esempio. E anche in questo caso i cinesi non fanno altro che richiamare il comitato a rendere questo principio operativo. E anche qui, al contrario di quello che noi occidentali stiamo facendo. Tra l'altro la Cina in questo propone anche una cosa su cui secondo me dovremmo fare una puntata, che è questo dello sviluppo delle nuove forze produttive, che è una cosa molto interessante su cui ti informerò, perché vedo che la tua faccia è interrogativa. No, sono assolutamente sguardo vitreo. Esatto, è interrogativa. E io credo che dovremmo assolutamente fare una puntata specifica su ognuno di questi paesi e sulle giurisdizioni. Sulla Cina penso che ce ne vorrà, sì. Ne serviranno più di una. Sì, sì, sì. Diciamo, questo sviluppo delle nuove forze produttive è molto misterioso, è stato dall'ultimo comitato del Partito Comunista Cinese, alcuni dettagli sono usciti, però c'è dentro anche lo spazio, quindi insomma, diciamo, a parte lo sviluppo delle nuovissime tecnologie, batterie, auto solari, verde, dentro c'è anche lo spazio, quindi dovremmo per forza tornarci. Tu volevi chiudere? Volevo chiudere perché diciamo ci sono altri punti, ma in realtà alla fine la sintesi è che i cinesi non fanno che richiamare il comitato al trattato, quindi diversamente da tutti gli altri. Ma uno dei punti fondamentali del trattato è anche lo spirito con cui stati diversi devono condividere lo spazio, quindi uno spirito di collaborazione e di coordinamento, e quindi che è il contrario di quello che noi vediamo adesso, perché quello che noi vediamo adesso è occupazione di spazio e cercare di arrivare prima degli altri sostanzialmente. E anche in questo caso i cinesi, la coabitazione era regolata dall'articolo 9 del trattato, anche in questo caso i cinesi spronano il comitato a proporre delle leggi per fare in modo che questo coordinamento da principio si trasformi effettivamente in un meccanismo funzionante, quindi dove per esempio ogni attore sia legato alle sue responsabilità, cosa che adesso è, diciamo, in teoria è così, ma in pratica meno. Benissimo, allora io direi che noi ci sentiamo un brano, ci riorganizziamo visti i ritardi che stiamo portando avanti. E niente, vi ricordo sempre che questa è Bocca Cica Cosmodrom e siamo sempre a Radio Forte, nel cesso di Forte Prenestino di Roma. Un nuovo brano. Just a man. I understand the wind and all the things that make the children cry. With my Les Paul, I know I'm small, but I enjoy living anyway. Book after book, I get all hooked every time a writer talks to me like a friend. What can I do with just living a zoo? All I do is play the space ball ricochet. Deep in my heart, there's a house that can hold just about all the use. I bought a car, it was old but kind. I gave it my mind and it disappeared. I love a girl, she is a changeless angel. She's a city, it's a pity that I'm like me, yeah. How can I live when all I do is play a space ball ricochet? I'm just a man. I understand the wind in all the things that make the children cry. With my Les Paul, but I enjoy living anyway. Yes, I do. I can hold just about all of you. How can I live when all I do is play this baseball? Bimbo, io dico che mi piace mantenere questa buona tradizione del taglio dei brani musicali, perché noi ci eravamo riproposti assolutamente di non essere... Cosa mi stai cercando di dire? Che la mia voce non che, si sente? No, che il sottofondo è troppo basso. Ah, no, no, adesso si sente. No, dicevo per chi ci ascolta, per i nostri affezionati, che in realtà si saranno resi conto dalla vecchia stagione che noi tagliavamo sempre bene, avevamo troppe cose da dire. Quest'anno ci avevamo ripromessi di dire no, no, andiamo tranquilli, andiamo molto rilassati. E tagliamo lo stesso. E delle volte non diciamo neanche cosa sono i brani. Esatto. Questa volta invece, ce lo ricordiamo, sì. Questo che avete, diciamo, avete sentito una parte, si chiama Spaceball Ricochet ed è un pezzo di Mark Bolan. Oh, perfetto, era molto bello, bravo, bravo, mi è piaciuto molto. Non so che cosa abbia a che fare con lo spazio. Spaceball, cioè la parola space. Scusa, non avevo sentito, va bene. Allora, abbiamo una fantastica rubrica adesso, l'unica rubrica che è rimasta senza sigletta a questo punto. Eh sì, questa è l'altra grande novità della puntata, direi. Il fatto che avremo una sigletta, ma non in questa rubrica, curata da Ray Max sulla posta del cuore. A te, Ray. È il cuore della trasmissione, in realtà. E tanto per iniziare, stiamo per assegnare Bimo ed io un adesivo a Cobble, perché pronuncia male tutte le parole russe, ma ha detto benissimo Buckminster Fuller, che non è una cosa da poco. Adesivo questo, per lui. Ha detto bene anche Baglioni. Comunque, no, io vi saluto tutte le ascoltatrici, tutti gli ascoltatori. Dobbiamo un po' stringere e passare a una sola lettera che ha portato delle grandi riflessioni. Da dove viene? Da Harlem, New York. Harlem con la H. No, ma io voglio sapere dove è arrivata. È arrivata tramite canali Telegram e di Remax. Io non farei troppe domande. No, è arrivata questa lunga lettera in inglese, che tra l'altro si ricollega molto. No, si ricollega tra l'altro molto a temi di cui avete parlato anche questa sera. Non era organizzata nel nulla, ad esempio al tema sul come si può utilizzare lo spazio, ma proprio fisicamente lo spazio dei pianeti o delle asteroidi, lo spazio nello spazio. Ti risponderei subito mandandoci i risorti, visto che parlavamo per esempio, mi pare il minimo. Hanno bisogno di spazio anche loro. Allora, Dre da Harlem, New York, scrive una lunga lettera in un inglese molto, molto corretto, quindi non, probabilmente qualcuno ci ascolta dall'altra parte dell'Oceano Atlantico. Cita, ci ha segnalato un articolo. Questo mi fa venire in mente che oltre a dover dire che siamo nel centro sociale occupato o gestito forte pensiero di Roma, Italia. Però andiamo in onda, in realtà online, e quindi potenzialmente ci possono ascoltare globalmente, certo. Ma chissà anche esattamente dove. Per quello che dobbiamo dire a Italia. E ogni tanto dovremmo anche citare la URL. Terra. Esatto. E comunque questo articolo dalla rivista Foreign Policy, che quindi è foreignpolicy.com, che si chiama Space Isn't the Final Frontier. Lo spazio non è l'ultima frontiera, come... E fondamentalmente un articolo molto lungo che si può sia leggere che ascoltare in audio, che ci sta già facendo discutere qua con i compagni Bimo e Cobble rigorosamente in ordine alfabetico. Fondamentalmente confuta il paragone che si fa, vi ricordate quando abbiamo parlato dell'immagine del cowboy spaziale? Esatto. Che è l'idea che un po' tutti quanti ci siamo fatti della conquista dello spazio. Confuta non solo il turnerismo si chiama, dell'immagine della conquista del vecchio West, ma tutti i paragoni che si possono associare, tutte le associazioni possibili tra quella che è stata la conquista dello spazio a ovest del Mississippi, fondamentalmente fino all'Oceano Pacifico, e quello che potrebbe essere l'esplorazione e la vogliamo chiamare conquista, colonizzazione dello spazio, diciamo l'esplorazione spaziale. Io andrei direttamente, fondamentalmente ci si chiede anche perché continua a mantenersi questo mito del cowboyismo spaziale. A me viene da dire, è una battutaccia, ma they want to believe, cioè, evidentemente le persone vogliono credere ancora una mitologia che è stata fortemente screditata, quella dell'immagine della conquista del West come di gruppi di individui o piccoli gruppi di persone che vanno spontaneamente a conquistare un territorio sterminato, che in realtà non è stato così e non è stata neanche un'esperienza, il mito fondante neoliberista, perché in realtà era un'esperienza molto, diciamo così, statalista. Il 90% dell'esercito statunitense che che viene mandata ad ovest, capitali ingenti, la costruzione delle ferrovie, che non è una cosa che si possa fare con il wagon wheel, no? La carrozzona che abbiamo visto. Sì, non si possono costruire individualmente le ferrovie. Assolutamente, no. tantomeno nello spazio. Quindi questo articolo secondo me porta delle grosse riflessioni. Io citerei solamente, diciamo, l'ultimo paragrafo, che la chiusura, che dice più o meno così: la metafora che scegli guida le tue decisioni, fa sembrare logiche e necessarie alcune opzioni mentre rende invisibili altre opzioni. Quindi siamo guidati da falsi miti nell'idea e nella costruzione dell'esplorazione e colonizzazione, come vogliamo chiamare, spaziale. Quindi consiglierei a tutti quanti, come abbiamo fatto già noi, di leggere questo articolo. Il link poi verrà postato. Lo posteremo chiaramente su Telegram, dove tra l'altro ricordiamo che Cobol ha già iniziato a postare un'ampia bibliografia. E questo va a integrazione della e potete scriverci non solo appunto con i piccioni viaggiatori, ma potete anche scrivere le domande. No, tra l'altro a me veniva in mente questa cosa, in parte ne avevamo accennato la volta scorsa o forse due volte fa, l'idea che la fantascienza in qualche modo in questi casi è doppia, se non ridescrive esattamente alcuni passaggi che sono poi anche i passaggi spaziali. Lì avevamo parlato per esempio della nascita del cyberpunk e la fine della storia, no? La storia intesa come la fine delle grandi contrapposizioni e la nascita del monopolio della violenza da parte degli Stati Uniti, e in cui in qualche modo hai anche la disgregazione statale e hai anche la disgregazione di quelli che sono i mega viaggi della fantascienza, l'esplorazione a lungo termine. In questo caso oggi tutti invece i grandi sistemi al di fuori di quello dell'industria, poi alla fine, sì, no? Oggi invece hai un ritorno, se vogliamo, lo diciamo appunto anche la volta scorsa, un po' al protezionismo, allo statalismo, anche lì dove gli Stati Uniti vedono che in qualche modo la concorrenza non è più dalla loro parte, no? Quindi dal momento in cui la globalizzazione non funziona più come vorrebbero loro, finisce questo principio di globalizzazione e ritornano sul modello cinese, se ne parlava prima, alcuni aspetti dello statalismo e la concorrenza è per i perdenti, dice. Oggi è diventata così, sì, esattamente. Quindi ritorna un po' questo richiamo allo Stato anche negli Stati Uniti, riportare le aziende nello Stato, riformattare gli Stati Uniti come un grande paese. Sono tutti obiettivi che può perseguire uno Stato, non possono più perseguire i privati, e guarda caso emerge quindi la fantascienza cinese, che si impone in maniera molto deflagrante da questo punto di vista, con dei racconti degli scrittori molto bravi, anche critici rispetto alla guida del Partito Comunista Cinese, forse di quest'ultimo un po' meno, però che sono un segnale di mappatura di quelli che sono i cambiamenti in corso dalla unipolarità, secondo me, alla multipolarità in questo momento tipicamente mondiale, insomma. E allora stiamo, come dire, dobbiamo un pochino correre. Grazie Ray, grazie per questa rubrichina che ancora non ha una sua sigletta. Questa cosa mi stupisce molto da uno attento come te. Basta che non metti Baglioni, come elegante è. Come me lo chissà Baglioni forse. Guardate, qualcosa da dire. Io so che vi piacerebbe che io dicessi che era una provocazione. No, non era una provocazione, mi piaceva proprio quel brano. Questa neanche, è una cosa veramente, esatto, veramente inquietante. Questa soddisfazione vi voglio dare. Bimo, invece, allora io qui fremo, perché finalmente sappiamo che c'è la tua rubrichina particolare, che nessuno te la tocca. Con la sua sigletta. Esatto, oggi. Che si chiama Che Schianto, e questa volta ha una sigletta. Eccoci qua, con la sigletta. Bellissima, tra l'altro. Piaciuta? Molto, moltissimo. Oh, sono molto fiero, grazie. Sì, grazie. Perché diciamolo, vogliamo dire qualcosa sull'autore della sigletta, intanto che tu mandi il sottofondo musicale? Sì, giusto, è vero, devo mandare il sottofondo musicale, ero sconvolto dalla cosa della sigletta. Dalla bellezza della sigletta e ti sei dimenticato. No, fantastico. in realtà il problema è nella sequenza quid che mi sono fatto, che dopo la sigletta dello schianto non c'era il sottofondo. Va bene, allora, lasciamo stare l'autore, ne parleremo una volta avremo modo, avremo modo. A te la rubrica. Allora, oggi torniamo un pochino all'ortodossia, cioè parleremo di una missione che è fallita. In questo caso il nostro congegno che avrebbe dovuto allunare si è tristemente dissolto nell'atmosfera terrestre, perché dopo lunghissimi mesi di attesa e di propaganda, sostanzialmente di pubblicità, questo oggetto ha avuto dei problemi tecnici, sostanzialmente perdeva carburante, quindi non sarebbe mai potuto arrivare dove era destinato, e quindi si è preferito farlo dissolvere nell'atmosfera. È stato detto per evitare di affollare ancora di più l'orbita intorno alla Terra di ciarpame, ma in realtà questo è stato il suo destino. Stiamo parlando del Peregrine Mission 1, la prima missione Peregrine, sarebbe dovuto essere in realtà un allunatore privato, l'azienda si chiama Astrobotic, che tenterà una mission 2 probabilmente, e come al solito quello che interessa, almeno quello che è emerso in queste puntate, è andare a vedere cosa avrebbe portato il Peregrine se fosse riuscito ad allunare sulla Luna. Come spesso succede nelle missioni private, il ciarpame è enorme, perché si va da una biblioteca su fogli di nickel. I più attenti ricorderanno che c'era una cosa del genere anche sul Bereshit, e infatti è esattamente lo stesso committente, la Arch Mission Foundation di cui parlavamo all'epoca. Ma non in space, però è israeliano, non parliamo di una. Sì, Bereshit, no, no. Sì, Bereshit, sì, no, diciamo. Sì, però no, l'Arch Mission Foundation mandava i fogli di nickel con sopra delle enciclopedie. La Torah. No, in questo caso non era la Torah, ma neanche nell'altro. Erano così informazioni sulla cultura e sulla scienza terrestri. E in questo caso, oltre a questi fogli, avevamo dei resti mortali di defunti sulla Terra, perché c'erano delle aziende che si occupano di funerali nello spazio, e questo probabilmente sarà un argomento che riprenderemo quando parlando di nuovi capitalisti spaziali, perché i funerali nello spazio sono a quanto pare un business piuttosto promettente. E per poi arrivare alla star del contenuto, che era una bottiglia di una bibita giapponese che si chiama Pocari Sweat, che avrebbe dovuto contenere al suo interno, oltre alla bibita ovviamente, anche 180.000 placchette di titanio con sopra dei pensieri di altrettanti bambini asiatici. E tutto questo purtroppo non è arrivato, è andato in fumo nell'atmosfera terrestre, forse per fortuna, che dici? Sì, Copo? Sì, io credo che, guarda, intanto mi piace moltissimo il fatto che sei ritornato a questo tuo spirito riottoso, come dire, infilando il mini Pimer nella piaga del capitalismo spaziale, lì dove i suoi fallimenti sono più evidenti. Bravo, quindi, perché l'ultima volta ci avevi un po' tradito. Lo so, ma lì c'era il robottino. Tra l'altro, non è del tutto escluso che anche su questo allunatore ci fosse un robottino Soracoon, tra l'altro, che a questo punto porta una scarogna terrificante, oltre all'enciclopedia, perché motivo per aprire un'altra rubrichina. Esatto, le scalogne spaziali, esatto, gli amuleti al contrario. Va benissimo, questa era Bocca Chica Cosmodrome, l'ho detto sicuramente sbagliato. Siamo sempre nel centro sociale occupato, autogestito Forte Prenestino, a Radio Forte, nei meandri del Forte, a Roma, in Italia. Ringraziamo sicuramente il nostro ospite materiale di questa sera, che era Andro Malis, che oltre alla registrazione consueta era qui fisicamente e ci ha potuto allietare col suo ghezzismo Dori che si smorgono rigorosamente. Assolutamente non d'accatto. Ringraziamo anche Remax, che ormai è un collaboratore fisso. Esatto. Ma, insomma, ma lo ringraziamo lo stesso. Sì, si prodiga molto, si sbatte molto per riuscire a come dire, essere molto preciso e molto puntuale su quella che è la posta rivolta alla nostra trasmissione. Noi vi ricordiamo che giovedì prossimo non andremo in onda. Questa volta Bimo non ve lo diciamo, non ve lo ricordiamo in realtà, no, perché esatto. non ve l'abbiamo mai non detto. L'abbiamo detto. E questa volta non per un problema tuo, ma per una cosa mia. Per esatto, la prima volta. Esatto, eh sì. Anche i Cobol. Anche i Cobol a volte saltano. E vi ricordiamo il nostro Telegram. Vi ricordiamo che tutte, compresa questa puntata, le troverete sul podcast di Radio Forte, di FortePernestino.net, nella slot di Radio Forte, slot Bocacica Casmodrom. E beh, niente. Quindi, non al prossimo giovedì, ma al giovedì prossimo ancora. E speriamo di ritrovarci e di vederci nel futuro. Buonanotte. E intanto, sigla finale.